voglia che scivola, vengono dei sogni che ho fatto nella solitudine, che parlano di una sirena grassa stesa lieve sopra il suo scoglio. No, poi mi è rimasto dentro, il sogno non è uscito più, e noi poi ci fermiamo ad ascoltare la bambina di quest'altra realtà. Metà pesce ma si fa sempre ascoltare, mi racconta inaspettate novità inventate da lei. E già si vedeva che era in pensiero, capiva dallo sguardo che ero